Buongiorno, che bello, potete accomodarvi, eh? Che bello averci, che bello esserci. Sì o no? Ah, ecco, siete arrivati anche qui, va bene, che buono. Abbiamo tanta ricchezza avendo l'uno l'altro, veramente, abbiamo la tua ricchezza e chi ti sta a fianco, chi ti sta dietro, perché è famiglia. È incredibile, sì, lo so che non riusciamo a vederlo, ma è così. Grazie Luciana, mi dice veramente grazie, io di più. Io sto là, mi dice quello che devo fare, perché se no non tolgo la mascherina, non prendo il microfono, non porto la Bibbia. Allora, solo la predicazione non mi suggerisce, ma questa c'è mia moglie, allora quello è bello. Veramente bello esserci e averci. È vero, viviamo proprio adesso, dobbiamo vivere quell'appartenenza, perché stiamo vivendo un tempo, un periodo veramente molto particolare, strano, una cosa dopo l'altro, non riusciamo a comprendere. Poi, per giunta, siamo nel libro di Samuele, al capitolo 29, e non vi dico là gli imbrogli, le guerre, i sotterfugi, e così. Allora, quello completa il quadro. Sai, è proprio a causa di tutto quello che noi viviamo, non trovate che sia proprio profetico, grandemente ispirato, che ci è stato suggerito, ci è stato indicato di parlare, di predicare, di annunziare riguardo all'eternità? Proprio in questo tempo concentriamoci su quello e non su quanto accade intorno, perché quello accade e continuerà ad accadere in altra maniera, ma la nostra forza e la nostra ricchezza è concentrarci su quello che il Signore ha in serbo per noi oggi e domani. E di questo noi ci dobbiamo arricchire, ci dobbiamo riempire. Io proprio sto sempre riflettendo sul fatto dell'eternità, l'ho detto già l'altra domenica, era a Bari, ho detto, e non per il fatto che questo è lì, è vicino, va bene? Non è per quello, d'accordo? Ma proprio perché ti riempie così tanto e ti dà tante prospettive e tanta speranza in tutto quello che vivi, che rinnova, veramente rinnova quello che stai vivendo, rinnova quello che stai pensando. E sapete, nel riflettere mi sono fatto la domanda, poi ce la facciamo, credo che ognuno di noi, ma quando inizia questa eternità? Allora, se vai a vedere, a studiare, a vedere, allora c'è chi dice che inizia con il concepimento, c'è chi sembra nel mondo della cristianità, c'è chi dice appena nasce, c'è chi dice quando uno accetta Gesù, c'è chi dice quando uno muore. Allora io a riflettere, quando inizia per me stesso? Dici, ma è venuto proprio forte dentro di me. Ma che ti interessa quando? Interessati piuttosto dove l'eternità? Questo vale per noi, non quando inizia. Il Signore ha messo questo in tutta l'umanità, ma dove io trascorrerò l'eternità e io voglio impegnarmi di vivere l'eternità con il Signore, non altrove, non mi interessa. Però se proprio la domanda continua come è continuata dentro di me, il Signore dà anche la risposta. Ora io dirò una cosa abbastanza strana, abbastanza inconsueta, ma ho scoperto che l'eternità inizia dai piedi. E non è una riflessione, è un pensiero mio, sapete? Ora, per togliere ogni equivoco che sia dipende da me, dal vedere che l'eternità inizia dai piedi, io vi leggo la storia, anzi leggiamo la storia di quello che è accaduto con Gesù e che cosa lui ha detto e ha fatto letteralmente. Dal Evangelo di Giovanni al capitolo 13, se non sbaglio, mo l'ho dato già. Sì, sono andato bene. Ora, prima della festa di Pasqua, conosciamo questo episodio, no? Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti, preso un asciugatoio, se ne cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale si era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Signore, tu, Signore, lavare i piedi a me?» Attenti adesso. Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Quante volte riceviamo noi questa risposta? Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo i piedi, non hai parte alcuna con me». L'eternità. Non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo, e insomma, quanto più ne puoi fare, fai». E finisce qui, sì, questo è il 9? Ok. Poi continua la storia, logicamente, la conosciamo, ma per non leggere tutto abbiamo questo. Poi l'è andata a rivedere a casa con calma. In questo intanto abbiamo letto: «Non avrai cosa alcuna con me, parte alcuna con me». E questo deve essere la nostra riflessione. Però andiamo a vedere tutto quello che Gesù ha vissuto. Qui in questa storia noi vediamo, rileviamo veramente diversi aspetti, più aspetti, tantissimi aspetti. Noi ci interesseremo solo di qualcuno, per esempio l'atteggiamento di Gesù. Quello che Gesù ha fatto è l'eternità, l'appartenenza alla famiglia. Almeno queste tre cose. Vedete, qual è stato l'atteggiamento di Gesù? Era scritto nel verso 1, vi ricordate? Qual era l'atteggiamento di Gesù? Potete alzare la voce? Ecco, lui è d'accordo con quello che io dirò e questo è buono. Avendo amato esattamente i suoi, li amò fino alla fine. Qual era l'atteggiamento di Gesù? L'amore. L'amore. Gesù ha amato i suoi in una maniera incredibile, eppure noi abbiamo letto che quando ha vissuto questo episodio, Gesù sapeva già che Giuda lo avrebbe tradito e ha lavato i piedi anche a lui. Anzi, io dico, ha iniziato da lui. l'atteggiamento di Gesù di amare, la sua umiltà, la sua appartenenza alla famiglia, gli ha portato a fare tutto quello che ha fatto. Però noi non dobbiamo vedere questo era Gesù. Questo Gesù chiede anche a noi, perché dopo nel continuare la storia, Gesù dice: voi mi chiamate Signore e Maestro, e allora se io l'ho fatto a voi, fatelo anche voi agli altri. Quindi il Signore ci sta dicendo che noi dobbiamo lavare i piedi all'altro, che vuol dire per noi amare. Questo è lavare i piedi. È logico che non lo facciamo letteralmente, ma amare l'altro. Amare vuol dire non puntare il dito, non condannare, non giudicare quando l'altro sbaglia. Quando l'altro sbaglia, accoglilo. Non ti arrendere. Io lo capisco, quante volte nella tua famiglia tua moglie, tuo marito ti ha deluso, tuo padre, tua madre, i tuoi figli ti hanno deluso, anzi a volte ti hanno ferito e ferito anche a morte. Non ti arrendere. Gesù ci chiama ad amare. Vuol dire a credere nell'altro, vuol dire a recuperare l'altro, vuol dire a lavare i piedi all'altro. Gesù dice anche che lui è umile, l'umiltà è anche un aspetto forte dell'amare. Uno è umile quando non quando si stropiccia come uno straccio davanti ai piedi tuoi. Non è quello l'umiltà, ma l'essere umile vuol dire non mettere avanti i tuoi diritti. Quella è umiltà. Ma tutto questo non è espressione di amore. Così anche con sei della famiglia, appartieni alla famiglia, hai una famiglia. Anche quella, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, come li ami? Perché anche lì ci sono le delusioni, le amarezze, o non le viviamo? E come che le viviamo? Certamente mia moglie le vive più di me, perché io ne combino. Grazie. Questa è, vedete, poi dite che non è vero, che lo dice per dire. È la conferma. Ma amare come si ama la moglie, come si ama il marito? Non certo adoperandoti e facendo, impegnandoti e volendo fare, no, semplicemente dicendo al Signore: grazie per la moglie che mi hai dato, non ti arrendere. Grazie per il marito che mi hai dato, non ti arrendere. Continua a farlo nonostante tutte le delusioni. Grazie per il fratello che hai messo al mio fianco. Grazie per chi sta vicino a me. Ringraziando il Signore, questo è il passo dell'amore. Perché più ti sforzerai a cercare di amare con atti e con fatti e con cose, e più delusioni riceverai e più amarezze sperimenterai. Ma incomincia a ringraziare. Costruisci in questa maniera l'eternità dentro di te, verso anche l'altro. Ma passiamo oltre, che cosa ha fatto Gesù? Questo era l'atteggiamento di Gesù che chiede a noi anche di praticare, di fare nelle piccole cose. Inizia dalle piccole cose, fratelli e sorelle, e lì poi continui, ma non ti arrendere, non ti arrendere. In ogni direzione, quanti fra di noi hanno pregato per il proprio marito, per la propria moglie, per anni e anni e anni, e dopo tanti anni hanno visto una piccola virgola. Ci sono tanti. Ci sono tanti. Il Signore opera in questa maniera, ascoltando quello che noi prendiamo come posizione. Ma ho detto, passiamo, che cosa ha fatto Gesù? Ha lavato i piedi. Gesù ha lavato i piedi. Ora, noi sappiamo, dobbiamo sapere che i piedi nella parola di Dio rappresentano la persona stessa. Tante volte si parla dei piedi, un'infinità di volte. Salmi poi ne è pieno, dice, che ne so io, rimani, stai in piedi davanti al Signore, oppure Signore fa che i miei piedi non vacillino. Oppure, come è scritto in Romano, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la buona novella. Vedete, i piedi rappresentano il nostro essere e il nostro fare nella parola di Dio. Ma perché Gesù lava i piedi? Non solo perché ci rappresentano tutto nell'essere, ma innanzitutto dobbiamo comprendere che Gesù l'ha fatto praticamente, ha lavato i piedi, perché è chiaro che allora era anche proprio usanza fare questo, poi lo vedremo un momentino, ma perché ha lavato i piedi? Ha lavato i piedi perché è il rinnovamento, è il cambiamento, cioè lavando i piedi lasci fuori quello che è di fuori, perché noi nell'antichità ognuno che entrava in una casa veniva offerta dell'acqua, e se erano famiglie benestanti i servi lavavano i piedi agli ospiti che arrivavano, oppure li lavavano loro stessi, non solo per la pulizia ma per togliere anche tutta la polvere, era simbolico, e di lasciare fuori tutto quello che è il mondo e tutto quello che si viveva fuori. Tu entri nella mia famiglia e non diventi un ospite, ma lavando i piedi fai parte della famiglia. Vi ricordate che Gesù si è lamentato con Simone? Dice, tu non mi hai dato nemmeno l'acqua per lavare le mani, e non dico i piedi, e questa peccatrice mi sta lavando i piedi con le sue lacrime. Vedete quanto è importante l'atto in questo senso del cambiamento, perché in quello che abbiamo letto Gesù ha detto in pratica a Pietro, rispondendo a Pietro, ha detto, sai, la salvezza l'hai ricevuto perché mi hai accettato come personale salvatore, perché io sacrifico la mia vita per la tua salvezza, quindi non c'è bisogno che ti lavo tutto o altre parti, solo i piedi, perché i piedi rappresentano proprio il continuo cambiamento, il continuo rinnovamento della nostra vita, il rivedere sempre che noi siamo parte della famiglia di Dio, parte del regno dei cieli, parte dell'eternità, e questo lo dobbiamo rinnovare proprio più che altro adesso. Gesù, abbiamo già detto, lava i piedi, ma li lava anche a Giuda. Quindi non è così dire, io devo lavare i piedi a quello, piuttosto glieli taglio. Chi non l'ha mai pensato, va bene, perché ti viene da dentro. Ma è il continuo rinnovamento, cambiamento dentro di noi, in quello che siamo dentro, ma anche in quello che siamo fuori, anche le nostre azioni. Quando noi ci adoperiamo in questa maniera, stiamo cambiando i nostri pensieri, stiamo rinnovando il nostro modo di essere, ci stiamo agganciando a quella che è l'idea del Signore Gesù, dell'eternità nella nostra vita e non solo di quello che viviamo, di quello che vediamo, di quello che sentiamo. Lavare i piedi, l'abbiamo già detto, era usanza allora. Si lavava i piedi quando entravi in una casa, quando entravi nel tempio, il sacerdote si doveva lavare i piedi. Era proprio così importante una cosa del genere. Capite perché il Signore dice poi, mi chiamate maestro e signore, fallo tu. Io ho fatto questo. Perché ha fatto quello Gesù? Non ricordate il passo, perché non l'abbiamo letto, non punto il dito. Perché? Perché dice, io che sono il Signore, il Maestro, e l'ho fatto a voi, quando più lo dovete fare voi agli altri. È un esempio, è un modello, è una strada da percorrere, è una via che il Signore ha messo dinanzi a noi e che ci ha indicati. Noi siamo veramente chiamati per noi stessi a continuamente a purificare la nostra vita. Da tutto quello che viviamo, da tutti i pensieri che abbiamo, da tutti i sentimenti che viviamo, da tutte le azioni che noi compiamo, è un continuo purificarsi. Perché? Perché la parola di Dio dice che il peccato è dietro l'angolo. E noi viviamo il peccato intorno a noi e dentro di noi. Vedete, io voglio leggere un passo, e non per scoraggiarci, non per buttarci giù, ma proprio per mostrare quanto è reale che noi cerchiamo la purificazione, perché senza di quello non c'è eredità, non c'è eternità, non c'è appartenenza. Leggiamo in 1 Corinzi, al capitolo 6, vedete che cosa è scritto? Lo conosciamo, lo evitiamo, ma lo conosciamo. Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra di voi dei processi, proprio detto papale. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche torto invece di ergere i tuoi diritti? Invece siete voi che fate torto e danno e per giunta a dei fratelli. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Gli ingiusti. Poi viene il seguito molto forte, dice non vi illudete. Termini così forti e poi non vi illudete, né fornicatori, e qui parla in maniera pratica, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Lo so che noi non possiamo più tanto parlare di questo. C'è un, se non sbaglio in Finlandia, una donna che sta subendo un processo incredibile e rischia fino a 14 anni di carcere, semplicemente perché in Facebook o uno di queste cose qui ha messo un passo della Bibbia. E non ha messo questo passo, un passo della Bibbia. Discriminazione. Se noi parliamo di effeminati, che cosa c'era? Di adulteri. L'adulterio è all'ordine del giorno nel mondo che ci circonda. È qualcosa di talmente tanto normale che dicono per non annoiarti. Sempre lo stesso uomo, sempre la stessa donna. Vedete? Il diavolo sta cambiando l'ordine di questo mondo per farci cadere nella sua rete. Ma Gesù dice, lava i piedi, non ti arrendere, lava i piedi. Vedi il fratello che sta commettendo un errore, un peccato, non condannare. Non giudicare, non allontanarti, piuttosto metti una mano intorno, questo è lavare i piedi, e lotta per lui, lotta per lui. Non buttare sentenze, se continui così finirai all'inferno, è già all'inferno. Noi siamo per far risalire, richiamare, questo è lavare i piedi, non ti arrendere. Inizia piuttosto, se ti viene subito da dire qualcosa, inizia con la preghiera. E se anche la preghiera, va nella direzione, Signore, cambialo, lo vedi com'è mio marito, lo vedi com'è mia moglie, quello che fa, lo vedi com'è, e usi il fatto che l'altro deve cambiare, allora lascia la preghiera, prega in nuove lingue, che è meglio, là capisce veramente il Signore quello che tu vuoi dire, quello che hai nel cuore, ma che esce altro dalla bocca e dai pensieri. Opera in questa maniera per lavare i piedi agli altri. Lavare i piedi agli altri vuol dire non ti arrendere. Di nuovo, Gesù dice, mi chiamate maestro e signore, allora fallo tu. Se io l'ho fatto, fallo tu. Aiuti l'altro. Come? Ho detto già prima. Inizia con la preghiera, è così semplice. Hai qualcuno nel cuore? Hai uno della famiglia, un amico, un collega che desideri tanto che afferri l'eternità e afferri la vita con il Signore e che si riscatti da quello che sta vivendo, prega, non ti arrendere, prega. Anche quando vedi, ho detto già prima, quanti fra di noi hanno pregato anni e anni e anni per i loro mariti, per le loro mogli, per parenti e poi l'hanno vista arrivare al Signore. Perché ci sono queste testimonianze in mezzo a noi. Vaglielo a chiedere, come hai fatto? Sai che dirà? Ho pregato. Perché l'hai detta cruda ed era cruda, l'hai detta cotta ed era cotta, l'hai detta in quella maniera e in quella maniera, ma la preghiera è come la goccia dell'acqua, spacca la roccia. Continua a pregare e poi quando avviene che c'è anche da illustrare la via della salvezza, fallo non condannando, non accusando, non mostrando quello che l'altro non fa o che dovrebbe fare, di piuttosto quello che Gesù ha fatto nella tua vita. E come la mia vita è rinnovata grazie all'opera del Signore. Inizia con la preghiera. E questo non è nemmeno qualcosa che noi diciamo, è Gesù direttamente che lo ha detto. Gesù, vi ricordate la storia della vedova e del giudice iniquo? Qual era l'insegnamento di Gesù? Disse tutta quella storiella, probabilmente se la inventò, probabilmente era qualcosa di vero, disse tutta quella storiella per dire alla fine non stancarti mai di pregare, non stancarti mai di lottare in questa maniera, non ti arrendere perché il Signore è dietro di te e con te. Ora, tutto questo determina la nostra eredità, determina il nostro essere con il Signore, determina l'eternità che viviamo già adesso, perché è oggi che inizia e con ogni cambiamento, se non l'abbiamo afferrato, e con ogni cambiamento che noi produciamo eternità dentro di noi e con ogni cambiamento nella nostra vita, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, che noi costruiamo un altro, mettiamo un altro mattone all'edificio, e con ogni piccolo cambiamento. Gesù dice a Pietro, con questo terminiamo, non avrai parte alcuna con me. Se mi arrendo, non ho parte alcuna con il Signore. Se io non continuo a lavare i piedi, amando e formando famiglia, non ho parte alcuna con il Signore. Se mi arrendo, perdo anche quel poco che ho costruito. E questa è la parabola dei 10 talenti, vi ricordate? Noi siamo chiamati a produrre, a rappresentare e quindi a vedere nella pratica anche dell'altro che cos'è l'eternità. Il Signore ti ha affidato qualcuno. Il Signore ti ha affidato qualcuno. Ti ha affidato qualcuno da amare, ti ha affidato qualcuno da custodire, ti ha affidato qualcuno da strapparlo dalle tenebre, ti ha affidato qualcuno in ogni modo. Il mio compito, il tuo compito è non arrenderci e mostrare la via che porta veramente l'eternità dentro. Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Grazie, oh Signore Gesù, dell'esempio che tu hai dato a ognuno di noi, come operare, come agire nella nostra vita quotidiana, di famiglia, di lavoro, di strada, in ogni modo, di amicizie. Signore, grazie che tu ci hai affidato queste persone che sono vicine a noi e noi vogliamo lottare finché loro possono vedere la tua luce e possono vedere l'eternità tua. Nel tuo nome, Gesù. Amen.